Flavio Gulinelli, una brevissima carta d'identità. Ma dunque, quello che dico, che dico sempre in questi giorni è questo, che sono nella pallavolo ormai da circa una ventina d'anni, la pallavolo professionistica è di alto livello da circa una ventina d'anni, e mi fa sorridere che quest'anno proprio in maniera eclatante qualcuno si sia accorto che ci sono anch'io. Non dico l'età perché lo faccio come le donne, la tengo stretta per me, ma parlando di una ventina d'anni di carriera da allenatore ad alto livello, mi pare di aver scoperto già troppo le mie carte. Appassionato di pallavolo, più che non addetto ai lavori, mi ritengo un malato di questo sport e faccio del lavoro la mia arma migliore. Tre aree: capacità tecnica individuale, preparazione fisica, tattica e statistiche messe insieme. Le ultime due sembrano essere diventate importantissime a discapito dello sviluppo delle qualità tecniche individuali. Verissimo. Io credo che ci sia una connessione molto stretta tra queste tre aree, e ne aggiungerei una quarta che è in stretto contatto con la parte tattica, con la parte statistica, che è l'approccio mentale e lo sviluppo mentale legato ad ogni singolo fondamentale. Direi che la crescita e lo sviluppo fisico determinano dei limiti di tipo tecnico, o migliorano dei limiti di tipo tecnico, e migliorando i limiti tecnici si accrescono innumerevolmente le possibilità di sviluppo tattico, legate naturalmente a situazioni oggettive che sono riferite ai numeri delle statistiche. Il tutto condito dall'aspetto mentale, che è diventato con il Rally Point System il collante ideale per queste tre aree, da svilupparsi non solo individualmente ma a due o addirittura nella complessità. Quindi le aree tra di loro, la connessione tra queste aree, sì, diventa decisiva. Allora, io credo che noi allenatori spesso abbiamo perso di vista l'individualità che contraddistingue la tecnica specifica legata a ogni fondamentale. Io ho dato una connotazione alla tecnica più volte paragonandola ad un vestito che deve essere costruito su misura. Ci sono delle situazioni specifiche fisiologiche che possono limitare o che possono migliorare lo svolgimento e l'applicazione di un fondamentale. Per cui la parte fisica, che spesso viene intesa come saltare di più o come essere più forti, non è solo questa, ma è essere più elastici per poter sfruttare la capacità muscolare al limite, essere resistenti per poter saltare il più a lungo possibile, la maggior misura possibile, essere così flessibili da poter utilizzare la leva in tutta la sua estensione, sia per quanto riguarda il treno inferiore che per quanto riguarda il treno superiore. Intesa in questo modo, la parte fisica, secondo me, produce delle variabili sulla parte tecnica infinite e cambia i confini della tecnica. Quindi mi stai dicendo che lo sviluppo effettivo delle qualità fisiche degli atleti ha ampliato anche i confini dell'area tecnica? Esattamente. Io credo, la filosofia che secondo me e che con il mio preparatore atletico cerchiamo di portare avanti da qualche anno è proprio questa: prima l'atleta e poi il giocatore. Quindi la ricerca, lo sviluppo della parte fisica dei fondamentali deve essere improntata all'atleta pallavolista, non più al giocatore di pallavolo, come spesso si è cercato di costruire, di creare. in questa direzione, in questa ottica, ci sono secondo me degli sviluppi davvero della parte tecnica infiniti e danno delle possibilità tecniche diverse. Noi abbiamo spesso, noi allenatori, abbiamo stereotipato i fondamentali e li abbiamo richiusi in vincoli molto stretti di tipo gestuale, e invece in realtà la pallavolo ha uno stile che può essere il più libero possibile, ma deve conservare dei paletti tecnici che non sono solo legati all'esecuzione, ma sono legati al rapporto con la palla, spazio-tempo, sono legati alla possibilità fisica di essere più veloci possibile e di poter reagire mentalmente il più rapidamente possibile alle situazioni che si presentano. La tua analisi è applicabile a giocatori già formati o anche a giovani che devono formarsi? Assolutamente no, credo che sia assolutamente universale. Io l'ho sperimentata sia con ragazzi molto giovani che con giocatori affermati. Io credo che ci sia veramente la possibilità, lavorando sulle condizioni fisiche o fisiologiche, di poter ottimizzare l'esecuzione di un fondamentale senza doverlo necessariamente confinare entro determinati limiti tecnici. Quindi, se ho ben capito, è come se tu fossi un elogio alla complessità. Sì. Complessità intesa nel senso che, rispetto al tentativo di semplificare il gesto, di identificarlo e di proporre un simbolo, sì, lo sviluppo può nascere proprio da cogliere gli aspetti positivi semplificati e poi ampliarlo con la... Perfetto, perfetto. Io credo che l'individualità, credo che come va tenuta in grande conto in una palestra pesi, dove non tutti gli atleti sollevano alla stessa macchina lo stesso peso, nello stesso modo la parte tecnica in palestra può riportare delle verosimiglianze di questo genere, nel senso che non tutti possono, per limitazioni fisiche, per situazioni muscolari, per condizioni articolari, possono ripetere lo stesso fondamentale nello stesso modo. E quindi credo che l'adattamento sia la situazione più importante, e la parte fisica, più sviluppo la parte fisica, più ho possibilità tecniche e di conseguenza ho la possibilità di risolvere lo stesso problema in modi diversi. Quindi a cascata, tattica, tecnica, parte fisica, il tutto unito dalla condizione mentale. Okay. Proviamo a scendere un po' nel dettaglio adesso, nel senso che tu hai collaborato e forse ne paghi un po' le conseguenze anche con il Brasile, con, sì, Bebeto. Sì. C'è una differenza evidente nel modo in cui lavorano i brasiliani e il modo in cui noi lavoriamo? Ma credo che la differenza più grande che possa saltare agli occhi anche al profano è che sicuramente tanto quanto noi italiani siamo legati a situazioni numeriche, e tanto quanto noi ne facciamo degli obiettivi numerici, il pane quotidiano dei nostri allenamenti, tanto i brasiliani semplificano queste situazioni, riducendo a volte le situazioni di agonistiche all'interno dell'allenamento agli estremi. Mi spiego. Noi molto spesso sulla battuta lavoriamo con obiettivi che contemplano almeno 4-5 valutazioni dello stesso fondamentale. I brasiliani lavorano essenzialmente sui due estremi, fare punto e evitare gli errori. E la stessa cosa a specchio riportata sulla battuta, evitare di prendere punti diretti, non preoccuparsi se c'è la precisione assoluta oppure no. Sulle condizioni di lavoro, semplificare il rischio, riduco il rischio della ricezione, aumento la partecipazione del lavoro del palleggiatore. Queste sono le situazioni che loro fanno e che credo che esaltino la loro concezione del gruppo e il loro modo di stare insieme, che sembra a tutti una cosa al di fuori di quelli che sono i canoni che sono normalmente ritenuti importanti qua in Italia. Effettivamente però, come tu dicevi, ridurre le classificazioni nei brasiliani comporta una maggior partecipazione. Sì. Noi europei diremmo, in qualche modo così lasciamo troppo spazio a interpretazioni, ci preoccupiamo solo del risultato e non curiamo il dettaglio. Sì, io credo che però, ecco, forse devo completare un po' il concetto. Sicuramente noi racchiudiamo molto di più il nostro gioco all'interno di schemi e di situazioni di allenamento che siano il più verosimili a quella che è la situazione della partita. La situazione di stress, la situazione agonistica, l'uno contro uno, il 6 contro 6. I brasiliani invece sono molto più liberi da schemi, molto più liberi, e la ricerca della qualità all'interno dell'allenamento è fatta sullo sviluppo del ritmo. Ritmo vuol dire cercare di tenere la palla in gioco il più a lungo possibile e quindi evitare gli errori, ma evitare gli errori vuol dire a volte limitare il rischio. Limitare il rischio vuol dire rendere più semplice una situazione che potrebbe essere invece valutata in termini di rischio con coefficienti differenti a seconda di quella che può essere l'efficacia del colpo. Loro sono molto più liberi, noi siamo più stereotipati. E a volte, e questo è un pensiero che io ricevetti da Bernardino quando gli feci delle proposte su situazioni di lavoro, ho paura, questo mi disse Bernardino, ho paura che chiedere di fare meno errori voglia dire limitare la velocità della battuta. Quindi ancora una volta diventa decisiva la valutazione dell'allenatore, in questo caso, nel proporre al suo gruppo, con le sue caratteristiche, sì, gli obiettivi migliori. Esattamente. Perché se forse il nostro difetto come vecchi italiani era quello che andava bene un po' tutto, sì, e quindi l'arrivo di Velasco in qualche modo coincise con il determinare in modo più specifico, certo, gli obiettivi da raggiungere, a esagerare con gli obiettivi poi diventi un po' una macchina, un robot. Anzi, spesso quello che noi abbiamo perso di vista è nel portare gli obiettivi in allenamento è che ci sono obiettivi diversi e obiettivi di tipo tecnico come obiettivi di tipo tattico, che sono due cose assolutamente diverse. Spesso abbiamo confuso la parte tattica con il 6 contro 6, ma non è solo quello. L'esercizio tecnico e l'obiettivo tecnico legato allo sviluppo di un esercizio che possa essere più analitico o sintetico, cioè dove partecipano magari solo un paio di giocatori o dove ci sono due o più fondamentali ripetuti da soli due giocatori all'interno di uno spazio più grande che è quello del campo, comporta lo sviluppo, la necessità di lavorare tecnicamente su una situazione che poi sviluppo nell'azione complessiva. Ecco la differenza. Noi spesso sulla globalità abbiamo fatto delle confusioni. Il globale è inteso come il 6 contro 6, ma sempre ripetuto nello stesso modo. Il 6 contro 6, il globale, può essere utilizzato per sviluppi di tipo tecnico, dando importanza di volta in volta con obiettivi variati e appositi a un fondamentale piuttosto che un altro. Io posso fare il 6 contro 6 pensando al muro, posso fare il 6 contro 6 pensando di più all'attacco, pensando alla copertura. Questo a volte è stato un po' confuso. La pallavolo è andata avanti nella sua storia con cambiamenti piuttosto repentini, a volte di regolamento, muro invadente, il numero dei tocchi, adesso il rally point system, o di natura tecnica, la scoperta del bugger, l'inserzione dei due duck bill, probabilmente la velocità che Bernardino è riuscito a imprimere ai suoi. Il prossimo step, quello che nessuno si immagina, dove potrebbe essere? Non so, io a volte immagino e cerco di mettere insieme tutti i dati che raccolgo nei miei allenamenti per poter trovare qualche strada che possa portare a situazioni nuove, ma io credo che già il riuscire a, almeno questo per me, lo dico per me, il riuscire a mettere insieme e a coordinare gli aspetti di cui abbiamo parlato prima possa già portare a scoprire degli orizzonti nuovi. faccio un esempio, il Marshall che abbiamo visto questa sera è sicuramente un esempio di qualità naturali, ma è un esempio di qualità naturali con unite a coordinazione, a potenza, a scelta di tempo, a coordinazione oculo-manuale, che sicuramente possono essere ricercate non nel Marshall solo, ma in ogni atleta con eventualmente delle attenzioni diverse. Io credo che lo sviluppo, non so se possa essere sul gioco, ma credo che lo farei di più sulla situazione individuale. Quindi non ti aspetti un prototipo nuovo di giocatore che possa così sorprendere e rivoluzionare, ma mettere insieme con modalità diverse tanti meccanismi che potrebbero effettivamente rivoluzionare. Penso di sì, soprattutto sulla capacità di gestire i vari momenti della partita, del set. Perché vediamo che adesso molto spesso le squadre sono di molto condizionate da quelli che sono i momenti negativi o positivi, gli aspetti negativi o positivi della partita, e credo che il lavorare unendo gli aspetti di cui abbiamo detto prima con la parte mentale, credo che sarà un salto di qualità importante. Il pensare alla palla successiva che fu di Velasco credo che sia adesso più importante che mai. Senti, si inizia a parlare con una certa frequenza di motivatori psicologi, e io vengo da un mondo nel quale questa parola suscitava sempre un po' di perplessità. La prima reazione era: io non sono malato, non ho bisogno di psicologi. Effettivamente i tempi sono cambiati molto e c'è molta più disponibilità. Io ritengo che sia il capo allenatore che deve riuscire in qualche modo a produrre un contesto nel quale questi concetti di natura psicologica vengano pian piano distribuiti. Ritengo quindi che lo sport italiano, secondo me, non sia ancora pronto ad avere un'immagine così evidentemente distaccata come un motivatore. Io non posso che essere d'accordo su questo aspetto, anche se magari qualcuno mi darà del troglodita, ma io sono d'accordissimo su questo. Io credo che la figura dell'allenatore in questo senso è fondamentale. Io personalmente credo, perché mi hanno insegnato, perché ho avuto la fortuna di lavorare o di veder lavorare grandi allenatori e di mettere in pratica le situazioni che ho imparato sul campo a fianco di grandi giocatori e dai quali ho imparato quello che è il senso del feedback, no? Il ritorno: l'allenatore propone e il giocatore risponde sul campo, e credo che il rapporto diretto sia la situazione più importante e più motivazionale per quanto riguarda l'atleta, ma per quanto riguarda anche l'allenatore. E il fatto che si deleghi a una persona esterna questa parte che ritengo fondamentale nel nostro sport di oggi e nello sport in generale, Non penso sia positivo, ma non solo per quanto riguarda il giocatore, ma soprattutto per quanto riguarda l'allenatore, perché l'allenatore ha bisogno della stessa motivazione del giocatore, e credo che sia un alimentarsi continuo e reciproco, e deve essere così. Io dai miei giocatori prendo molto, do molto, perché do tutto me stesso, ma a volte vedo che sono più motivati a dare qualcosa se lo do io. Nei libri di psicologia si parla spesso di questo strano ruolo in cui il dottore è anche un po' paziente, il paziente è un po' dottore. Assolutamente, io sono convintissimo di questo. Sono convintissimo e sono convinto che come si diceva, io la forza della mente è grande ed è difficile da valutare. La forza di un gruppo è legata alla mente, che sia una mente unica. Se c'è la voglia di sacrificarsi per lo stesso obiettivo, credo che questa sia la situazione più grande e il risultato più importante, perché però parte dall'allenatore. Io sono convinto che la partecipazione, io vivo la partita come se fossi in campo, mi hanno insegnato così, la vivo così, e ogni allenamento è la stessa cosa e la partita è uguale all'allenamento, quindi i miei giocatori mi sentiranno sempre vicino, io mi sento vicino a loro, per cui credo che sia questo il modo migliore di dividere le situazioni e di analizzare quello che non va o quello che può andare bene, migliorare quello che può andare bene, ma stando tutti insieme. Allora, lancio una specie di sasso, poi ne riparliamo la prossima volta, spero presto. Volentieri. Qualche anno fa, ormai parecchi anni fa, mi ricordo, mi contattarono, cose che scrissi anche su Gazzetta dello Sport, da un istituto di ingegneria a Milano, e mi chiesero se era possibile, mettendo un sensore sui singoli giocatori della squadra, trovare una forma della squadra che potesse garantire più punti. Io gli dissi che in realtà questa operazione era molto complicata, però mi fece balenare l'idea che i sei giocatori fossero effettivamente una specie di forma unica. Tu parlavi di mente globale. E questa cosa mi piace, devo dire, la trovo molto molto affascinante. Esattamente per la stessa ragione con cui quando guardo le partite, qualche volta provo a non guardare, non fissare il pallone, ma restare più aperto possibile per vedere un po' che ritmo ha, che movimenti ha questa squadra. Ci pensi a queste cose? Credo sì, sia... assolutamente. Io ci lavoro anche. Io credo che... e spesso lo dico anche ai miei giocatori che ogni tanto mi guardano con gli occhi sbarrati e la bocca aperta, ma io credo che l'allenatore e i giocatori insieme debbano trovare, faccio un paragone irriverente riferendomi al mondo della meccanica, il cruise control, la velocità alla quale possono percorrere la strada, la distanza maggiore senza correre grandi rischi. Il limite minimo, sotto di così non vai. No, no, non solo. Il limite che possa essere minimo e massimo al tempo stesso. Quando si guida in autostrada col limitatore di velocità, spesso a 160 all'ora ci sono dei momenti in cui uno si spaventa perché arrivi talmente veloce, quando c'è un po' di traffico fai fatica anche a renderti conto del raggio di curvatura di certe situazioni di strada. Io credo che per una squadra, per un allenatore, per un gruppo di giocatori debba essere proprio questo: cercare la velocità alla quale non si rischia di sbandare e alla quale invece si trova la possibilità di fare le cose con il minimo margine di rischio. Credo che sia questo, e deve essere una velocità che coinvolge tutti, anche quello che può andare in quel momento solo a 10 all'ora, perché a volte si rischia di far correre qualcuno a 100 all'ora e qualcuno a distanze troppo grandi, per cui non si trova. Quindi la squadra deve essere un animale armonico. Io credo proprio di sì. Armonico significa non tutti alla stessa velocità, ma armonico. Armonico, si deve trovare la situazione di gioco che coinvolge tutti, utilizzandoli ciascuno al 100%. Grazie mille, alla prossima. Grazie a te.